Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, dalle ore 20 alle ore 21, scusate, 21.30, come tutti i giovedì, ma andiamo ora con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla Retribution Behind Enemy Lines, sigla di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine dalle ore 20 alle ore 21.30. Ricordo che questa trasmissione è condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ma andiamo ora invece così all'ascolto, presentazione di una prima band. Loro sono i svedesi Wolf Brigade, direttamente da Stoccolma, e dal loro ultimo album ci ascoltiamo un paio di brani, ultimo album che si chiama The Enemy Reality. Loro sono i Wolf Brigade. Disable my soul, revive. Bene, eccoci qua. Allora, ovviamente siamo in diretta radiofonica e così anche avete capito che noi non mettiamo i dischi scaricati o masterizzati, ma abbiamo proprio i vinili e ovviamente nella fretta, ovviamente dell'ultimo momento di questa diretta radiofonica, vi presento nuovamente i Wolf Brigade dal loro album datato 2019, The Enemy Reality, alla velocità giusta. Comunque devo dire che non erano nemmeno male a velocità ridotta. Va bene, Wolf Brigade. Souls on fire! Sì, un saluto anche da parte mia, sì, speriamo che non sia un saluto giù di giri, ma su di giri. E allora, è appena passato l'8 marzo, ieri era l'8 marzo, viviamo in questo paese stato di patriarche, di funzionari di partito, di direttrici di istituti penitenziari, di magistrate, di sbirre, di donne in divisa, di tutrici dell'ordine capitalista, familista, razzista, di paladine delle pari opportunità di raggiungere i posti di potere dai quali comandare, opprimere, imprigionare, negare. Viviamo qua, ma nonostante ciò non ci facciamo prendere dalla disperazione a causa dell'assimilazionismo e del collaborazionismo dilaganti, e diciamo chiaramente che l'8 marzo che ci piace è quello che spacca. Da questi microfoni abbiamo già parlato del corteo antimilitarista e anticoloniale separatista che si è svolto ieri alla base di Teulada in Sardegna. Allora vi diamo un breve resoconto di come si è svolta l'iniziativa e poi ci saranno anche due contributi audio da laggiù. Allora, il corteo appunto si è svolto ieri davanti alla base NATO di Teulada. Tra l'altro si stavano svolgendo le esercitazioni della Iulia, quindi degli alpini della Iulia, esercitazioni a terra, ci sono state un centinaio di partecipanti che praticamente hanno fatto svariati chilometri lungo le reti appunto della base, e lungo tutto il tragitto c'è stata questa la compagnia urlante di questa zia Mena, cioè una gigantesca pupazzona di cartapesta, insomma, che ha sfilato per tutto il corteo lanciando maledizioni in sardo contro la base, i suoi occupanti e anche contro il gran numero di guardie che si sono mobilitate a difenderla da questa manifestazione antimilitarista. E tra l'altro poi in uno dei contributi sentiremo anche appunto l'audio della zia Mena. E la partenza del corteo è avvenuta dalla piazza di un piccolo paesino, Sant'Anna Arresi, dove zia Mena ha letto una lettera in sardo da parte delle organizzatrici, lettera rivolta alla cittadinanza, in cui appunto le organizzatrici hanno spiegato le ragioni della presenza in quelle strade, ma anche hanno dimostrato la loro solidarietà e il loro affetto a chi la base se la subisce ogni giorno. E poi ci sono state diverse testimonianze di lotta di compagne da diverse parti del mondo, in quanto appunto la lotta transfemminista è antimilitarista, anticolonialista, ma anche internazionalista. E poi, uscito dal paese, il corteo ha sfilato per diversi chilometri sotto il sole battente lungo le reti della base, presidiate anche sul perimetro interno da altri plottoni di sbirri e di militari. Uno schieramento come sempre spropositato e anche molto nervoso, pronto ad intervenire. C'è stata anche una, le compagne ci raccontano che c'è stata anche una un momento di ilarità, in quanto c'era oltre le reti, quindi all'interno della base, c'era un uomo in borghese, evidentemente uno sbirro in borghese, però la polizia l'ha preso per uno che era riuscito a entrare nel recinto, per cui c'è stato un inseguimento, cioè si sono inseguiti tra di loro praticamente. E vabbè, l'atto ridicolo della faccenda, e appunto sulle reti le compagne hanno messo ad asciugare lenzuola rosse di sangue mestruale e fustini di detersivi, promettendo, come dice lo slogan, la verrete caro, la verrete tutto. Per il corteo è durato 5 ore, quindi è stata una bella impresa. Sono state intonate canzoni che si rifanno alla musica leggera italiana e non, a cui è stato cambiato il testo per connotarle in senso antimilitarista e antipatriarcale. Purtroppo, nonostante insomma la mobilitazione, anche il casino che la mobilitazione ha fatto, le esercitazioni in corso non sono state interrotte e sono continuate per tutto il giorno, e probabilmente appunto le esercitazioni aeree vengono interrotte se c'è passaggio vicino alle reti, mentre quelle a terra no. E vabbè, infatti appunto le compagne hanno potuto sentire durante tutto il tragitto i tetri boati delle esplosioni. Ecco, una cosa interessante, prima di mandare i contributi audio, molte delle compagne che hanno partecipato hanno scelto di indossare la gunnedda nera, che sarebbe una parte insomma dell'abito tradizionale sardo, e poi sono stati serigrafati anche dei foulard per la testa, anche contro il sole, cioè per evitare di rimanerci secche a causa del sole, con questi foulard appunto con il simbolo transfemminista e la cerchiata composta dalle tenaglie che tagliano la rete. Ecco, possiamo mandare allora il primo audio, praticamente è così l'audio della zia Mena che lancia le sue maledizioni e poi i contributi delle varie compagne di varia provenienza, e a seguire, dopo magari mettiamo un pezzo musicale, poi a seguire il comunicato agli abitanti di Capoteulada. Anco posa chirre d'un uraio a voi se iebo su mandata vazze bocche da terra nostra dai prato bello bocca morvo au get lost sparite raus Un messaggio internazionalista questo 8 marzo dal Messico, dove stiamo gridando nelle piazze ni una menos, ni una assassinada más, perché i nostri corpi e i nostri territori non sono luogo di conquista. Come ci ha insegnato qui, dal Centro America, l'attivista del popolo Lenca Berta Cáceres in Honduras, che contro la militarizzazione del suo paese, come difensora del territorio, difensora della natura e dei fiumi, esortava dicendo: svegliamoci, svegliamoci umanità, non c'è più tempo, le nostre coscienze saranno scosse dal fatto che stiamo solamente guardando l'avvenire dell'autodistruzione basata sulla predazione capitalista, razzista e patriarcale. Ma io so che vinceremo, perché me lo ha detto il fiume, perché voi avete i proiettili, ma io ho la parola. Il proiettile muore quando esplode, però la parola vive quando replicata. Così diceva Berta Cáceres in queste parole per un 8 marzo contro la guerra di fronte alla militarizzazione dei territori. Si nanti votao de su gorre savurca, può avvelenai sa terra, può sparai, si ne depesa andai, bandai sindi e devressi, e chi spasso chi vadesi si antagontaus. Sos tempos est accabado, finita sa zeracchia, de samunare sos pannos, de fizos mortos in sa guerra, sas panas si sunt isortas si sunt sas panas, in biddas nostras e lacanas anzenas, da isuru l'umanno si facin conoscere, e non santa accagliare, fin sa saccando, sas bases militare santa serrare. Estado peruano asesino, militares asesinos del pueblo, policía asesinos del pueblo, más de 77 muertos en 3 meses de represión, más de 2.000 heridos graves en 3 meses de represión, centenares de arrestos arbitrarios. El Perú andino, el Perú profundo, llora sus muertos y sigue en pie de lucha por justicia y dignidad. Si nanti votao de su gorre savurca, può avvelenai sa terra, può sparai, si ne depesa andai, bandai sindi e devressi, e chi spasso chi vadesi si antagontaus. In Perù lo Stato, la polizia e i militari continuano ad assassinare manifestanti. Dal 7 dicembre scorso in Perù sono iniziate le manifestazioni contro questo governo. In risposta ovviamente ci sono state le repressioni. Repressioni che hanno portato alla morte di più di 77 persone. Queste repressioni sono state e sono classiste e razziste, in quanto la maggior parte delle persone assassinate sono persone di origine andino e di quartieri popolari. Ricordiamo a piante dosi che alle mani sporche di sangue, che le anime di quelle persone annegate nel Mediterraneo ti verranno a cercare. Siamo le figlie di quelle donne che non avete potuto uccidere nelle vostre frontiere. In questa terra si nanti votao. Non pomarrai, ma vos parai. Susanto chi s'ha fatto, si ne depesa andai, pon non torrai, ma i bruso si bia scova de vorru. In una poesia anche dal Kurdistan che dice: ho posato l'orecchio sopra il cuore della terra, parlava d'amore, del suo amore per la pioggia, la terra. Ho posato l'orecchio sul liquido cuore dell'acqua, il mio amore, l'amor mio, è la sorgente, cantava l'acqua. L'ho posato sul cuore dell'albero, della sua folta chioma, l'amor suo, diceva l'albero. Ma quando accostai l'orecchio all'amore stesso, che non ha nome, era di libertà che parlava l'amore. Tradotta da Joyce Lussu, queste parole risuonano anche delle proteste femministe contro le dittature in Iran, in Turchia e per l'autonomia dei corpi e dei territori fino al Rojava. Jin, Jian, Hazadi, donna, vita, libertà. Ice. If they know. Estimadas, se os gustas que doña Dante pidesi noi, pogherai conta dei basi militarisi. E poi ta duva Deus. Poi ta teneus in coru sa terra nostra, sa genti nostra e puro sa genti di atteso. Custotta, o leus brazzili con vos atrasa, is dubbios guideneus. In suo mese di Vriargio, eus ulligio messignone sarda, su ghianti declarau is comandanti dei militarisi. Is usu antinnau, ca is prum mannas ed eccitazionisi, funti po sa Sardigna, is spantosas opportunidadisi po su turismo e poi la vasecus. Su che sa spantau, estetio ca funti chi sono di proprio dei noi, de capoteulada. Eus pensau ca di aderusu una bregungia nominai is samunadorasa, poita de su chiscideusu, che l'incuna de vosatras assesti a movaidada, sciacquendi i bistirisi dei soldausu. E po tutto gusto che succedio, c'è ancora un processo, che non è staccabau. Totus uscideusu, chi non seis assoasa e assousu, assesti a movaidadasa. E sa genti, non sa movaidia da scetti noi, ma in totus a Sardigna. In noi si provanta armas a mortalisi, po' nemigusu di attesu, ma cantuaredi, isprimus un nemigus, seus proprio nosu. Custu bistirisi vianta dei soldausu che vadianta esercitazionisi in sa penisola delta. Ma is tempus de oi, is comandantis in naranta, ca ollinti bonificai custu tratto de su poligono. Puru ghianti nau, in su tempo passau, ca non ci vudi nudda de vai. Tanti, appusti de sta bonifica, o in titorrai e combatti sparendi in su proprio logo. In questo articolo de Unione Sarda, i generalisi si vunti bantausu de su dinai, potau des militarisi e des turistasa, puru chi, prima che arribanta, i militarisi, ci viante già i turistasa e ci vianta puru già i domusu potus arriciri. Nessuno chi sona da invecisi, dei straballusu, chi non si vuole fai prusu, proprio boita funti arribausu i soldausu. E nessuno questionata dei sterrasa, chi vianta cosa nostra, chi santi furau, de su mari, ca e torreu a un montronaggio, ca non fai ni manco a disciacquai spesi. A cantuvaridi, custa sa esercitazione si chi vanti, chi nanta cavunti a rispettendi s'ambienti e s'agenti, non si comprendi commenti po' di essi di aici, tirenti bombasa in ogni allogo. Uauta in prusu. Tocca da asi contentai e a si vrejai de fai istrevidorasa, donendi servizioso ai militarisi. Potusu vai papai, dus arricciri e dus attendi. A questo punto tenus questo pensamento. Ma commenti voi dessi, chi generalisi non scinti nuda de sughi di in noi, in questo luogo, in suo luogo a un di bivinti e fainti ed agitazionesi. Si pare di uno baghetto strana questa cosa, poi ta... Funti annusu chi funtandenti in tribunali poi rispondi de su ghianti combinau. O chi no, i generalisi fanti vinta de no scinnuda e non tenente rispetto. Non tenente rispetto posta genti motta dei noi poi serra savuradasa e chi non srebiti in prosa nuda che non ci cresci manco sufficienti e posto traballo che identificava sta genti e spo poi mavadiusu e po custusu chi vunti struppiausu posta riempestata. O anta pensai che sia su una campanata de dontasa e scimbra savuru. Se uso in noi, oi, posto tu de marzo, i nomi di buru de gustusu e custasa chi non poti ti chissionai. Poi ta già in nosa cattanta. O poi ta bivinti minacciadasa e minacciausu de sa miseria e ti minti a chissionai. Se uso in noi buru, può aggiudai a bosatrasa. Chi si sgherrendi, poi si vai a riconoscere i diritti su. E poi una vita sana e in pace. Noi speriamo che vosatrasa tenesi gana di sarriciri e savassenzia di avarrai accanto a noi. Assemblea Lotto 3 Antimilitarista. Falcon 1, cleared for takeoff on 03 left, wind 010 at 8 knots. 5 star, stand clear on 8. Sì, ritorniamo in voce e vi leggo la traduzione appunto del comunicato che le compagne dell'assemblea 3 antimilitarista hanno proposto agli abitanti di Sant'Anna Arresi, il paesino di Capo Teulada da cui è partito il corteo che ha percorso tutte le reti della base NATO di Capo Teulada appunto. Care, siamo quelle che ogni tanto vedete in questa zona per protestare contro la presenza delle basi militari. Lo facciamo perché abbiamo a cuore la nostra terra, le nostre genti, ma anche quelle lontane. Questa volta, prima di arrivare, vogliamo condividere con voi dei dubbi che abbiamo. Nel mese di febbraio abbiamo letto sull'Unione Sarda le dichiarazioni da parte dei vertici delle forze armate che ribadiscono come le grandi esercitazioni militari siano per la Sardegna delle straordinarie opportunità per il turismo e le lavanderie. La cosa che ci ha colpito è che si riferivano proprio al territorio di Capo Teulada. Ci è sembrato veramente di cattivo gusto nominare le lavanderie, perché dalle ultime notizie che abbiamo alcuni di voi si sono ammalati lavando le divise dei militari e c'è ancora un processo in corso. Per via dell'uranio impoverito si sono ammalati. Ovviamente non siete i soli e le uniche ad esservi ammalate e non ci si ammala solo in questa zona ma in tutta la Sardegna dove si sperimentano armi letali per nemici lontani e a quanto pare i primi nemici a morire siamo proprio noi. Tra le altre cose, quelle divise erano dei militari che si esercitavano nella penisola Delta, quel tratto del poligono che oggi i vertici militari dicono di voler bonificare, ma che anni fa dichiaravano imbonificabile. E dopo la bonifica vorrebbero riprendere le esercitazioni. Nell'articolo i generali sbandierano l'indotto del turismo, portato dai militari, anche se prima dell'installazione delle basi i turisti c'erano già, così come le strutture ricettive. Non si parla invece del fatto che molti lavori si sono persi in seguito al loro arrivo, insieme ai terreni espropriati, al mare sottratto e ridotto a un immondezzaio esplosivo. A quanto pare le esercitazioni si svolgono nel rispetto dell'ambiente, della popolazione, tra virgolette, come dicono loro, e non si capisce come questo possa essere garantito, bombardando e facendo esplodere ordigni. Insomma, ancora una volta, dobbiamo accontentarci ed essere felici di offrire dei servizi ai militari per nutrirli, accoglierli e accudirli. Quindi abbiamo proprio dei dubbi. O i generali non conoscono cosa succede nel territorio dove si esercitano e vivono, e ci sembra abbastanza inverosimile, visto che da anni si ritrovano davanti ai tribunali per rispondere del loro operato, oppure non c'è il minimo rispetto neanche per i morti nostrani, per le terre confiscate e distrutte, per il lavoro sottratto ai civili, per i malati, le malformazioni e per l'inquinamento. Forse pensano i militari che siamo persino idiote. Siamo qui per l'8 marzo, anche a nome di chi non può parlare perché non c'è più o perché è ricattato dalla miseria e dalla paura, ma anche per dare manforte a chi di voi sta portando avanti delle lotte per il riconoscimento dei propri diritti per una vita sana e pacifica. Contiamo sulla vostra accoglienza e solidarietà, se ne avrete voglia. Assemblea Lotto 3 antimilitarista. Let's go. Dunque, ieri era l'8 marzo e appunto sono passati 3 anni da quel maledetto 8 marzo in cui, a seguito delle rivolte scoppiate nelle carceri di tutto il paese, hanno perso la vita, cioè sono state ammazzate 14 persone. Modena è diventata il tragico simbolo di quella strage, poiché di quelle 14 persone, 9 erano detenute nel carcere di Sant'Anna. Allora ci sarà appunto in questo terzo anniversario della strage nelle carceri, ci sarà a Modena, ci saranno due iniziative. Domenica 12 ci sarà un corteo, una manifestazione che a partire dalle 14 che praticamente arriverà davanti al carcere, quindi per avere un dialogo insomma con i detenuti. E il corteo sarà preceduto sabato 11 da una giornata praticamente divulgativa sulla faccenda, in quanto appunto, come ci ricordano gli organizzatori, Modena è una città silente, cioè una città diciamo indifferente a ciò che è capitato nel 2020, e però non si intende lasciare le persone così nella loro indifferenza, nella loro quiete ottusa, ma si intende andare a dire come sono andate le cose, insomma portare la rabbia per questa, tra l'altro per questa strage, ma anche per l'archiviazione, no, della cioè le indagini su questi 14 morti sono state archiviate, e la motivazione dell'archiviazione è morte per overdose da metadone. E giustamente gli organizzatori ci ricordano che nel 2023 non si muore per overdose di metadone, perché c'è il modo per salvare le persone dall'overdose di metadone, soprattutto se queste persone sono in una struttura, insomma, cioè non è che vanno via con le loro gambe, ma sono lì. E allora, appunto, dicevo, sabato 11 ci sarà questa giornata informativa e ci sarà anche il montaggio in piazza di una cella, la cella tipica, diciamo, del 41 bis, appunto per far vedere in che cubicolo le persone sono costrette a sopravvivere. E difatti queste due giornate, insomma, sia sabato la giornata diciamo più divulgativa, sia il corteo di domenica, vogliono collegare diciamo un po' tutte le cose. Si parte dalla strage dell'8 marzo del 2020, si arriva a discutere, a affrontare anche il discorso del terrificante numero di suicidi, che il più alto numero di suicidi che c'è stato appunto nel 2022, e poi si vuole arrivare alla lotta di Alfredo Cospito contro il dispositivo di tortura che è il 41 bis, e appunto lotta che ha imposto, diciamo, con una forza senza precedenti, una riflessione collettiva su tutti i luoghi di detenzione. Quindi queste due iniziative sono non solo sono proprio insomma contro il carcere, e quindi vi leggo così i punti che gli organizzatori indicano. È giunto il momento di pretendere lo smantellamento di un sistema che genera morte, per avere verità e giustizia sulle morti in carceri, delle rivolte non solo, per denunciare le condizioni delle carceri, per l'abolizione dell'ergastolo e del 41 bis, per fermare l'uso creativo arbitrario della legge al fine di punire dissenso e lotte sociali, per un mondo senza carcere. I'm not afraid to die. Sempre riguardo alla strage del marzo 2020, c'è da dire che in questi giorni sono affiorati degli stralci pubblicati dalla stampa, diciamo, non in merito al 9 marzo 2020, ma qualche settimana dopo, in particolare i primi di aprile del 2020. Se vi ricordate, c'era in ballo la questione di quando finisce sto lockdown, quando ci date il via libera, eccetera eccetera. Emerge che a un certo punto il Silvio Brusaferro, presidente Istituto Superiore di Sanità e portavoce in quel momento del Comitato Tecnico Scientifico, manda dei grafici, dei dati a Roberto Speranza, ministro della Salute, circa l'andamento epidemico positivo nel paese, per concordare la linea da adottare. In quel periodo la discussione prevedeva diverse possibilità. Lui gli risponde, gli scrive: domani tieniti sulle curve all'inizio, poi vediamo domande. Due avvertimenti: uno, tutto quello che direte può finire fuori alla stampa; due, se vogliamo mantenere misure restrittive conviene non dare troppe aspettative positive. A queste parole Brusaferro risponde: ok, quindi niente modelli come quelli che ti ho mandato, ci raccordiamo domani, buonanotte. Il giorno dopo il ministro Speranza scrive: ottimo, tenete duro ora. Brusaferro: sufficiente? Speranza: ottimo. Brusaferro interroga Speranza: glielo diciamo che prevediamo sempre la chiusura? Speranza: sì, chiaramente. Quindi questi stralci ci fanno capire che la direzione politica dello Stato italiano mette in piedi questo comitato scientifico che sarebbe consulente. Dietro le quinte i consulenti sono indirizzati dalla direzione politica dell'esecutivo a dire quello che sta bene a loro. Ecco, questo sta al di là delle retroscena giudiziari, è emerso da questi stralci di questa inchiesta che andrà a finire in nulla, evidentemente, e dove appunto Speranza ripeteva: se vogliamo mantenere misure restrittive conviene non dare troppe aspettative positive, e poi c'è la questione, anche questa, delle milioni, dei milioni di mascherine acquistati in Cina ma non idonee ad alcun tipo di protezione nei confronti di agenti patogeni. Brusaferro scrive a Speranza: sulla base dei dati consegnati non sembrano essere adatte alla componente sanitaria. Speranza risponde: non è materiale per personale sanitario e neanche DPI, sarebbe per cittadini comuni quando escono a fare spesa o altro. Ma e quindi, giustamente dice il redattore dell'Indipendente da cui stiamo prendendo questa vicenda, perché obbligare i cittadini comuni a portare mascherine per cui lo stesso ministro della Salute in carica era a conoscenza che non avevano alcun elemento di reale protezione? Qual era lo scopo di obbligare persone a portare le mascherine se non proteggevano, come invece sostenuto dallo stesso Speranza? C'è la questione ultima del discorso delle scuole: erano chiuse le scuole per precauzione di abbassare il contagio. Brusaferro scrive a Speranza che il CTS è critico nei confronti di questa misura, non ci sono evidenze sul fatto che la chiusura delle scuole sia di beneficio nel contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2. Speranza perentorio: così ci mandate a sbattere? Alla risposta non gradita dello scienziato, L'ex ministro ribatte: non abbiamo tempo, paese col fiato sospeso, non si può dare segnale incertezza, altrimenti si perde credibilità. Quindi decidere, giustamente conclude il giornalista, decidere di privare bambini e ragazzi di andare a scuola, apprendere e socializzare, non fu questione di scienza ma di credibilità. E adesso, sulle note finali di questo brano, volevo solo ricordare che prima musicalmente, durante l'intervento, ma addirittura prima ancora, abbiamo ascoltato una band ligure, esattamente dalla zona di La Spezia, band storica dell'anarcho-punk italiano, ovvero i Fallout, che addirittura nel 79-80 si sono formati, e noi abbiamo ascoltato i brani tratti dal loro album datato 1988, Mondo Criminale, mentre ora ci stiamo ascoltando, e anche un attimo prima durante l'intervento stiamo ascoltando questi londinesi, Schwarzenegger, che è una band che si è formata ai primi anni 90, dal loro album The Way Things Are and Other Stories. Loro sono gli Schwarzenegger. E concludo così la carrellata, diciamo, sull'8 marzo che spacca, e dandovi lettura di questo comunicato della Vampa di Napoli. La Vampa è una casa transfemminista occupata per una vita libera insieme. C'è anche un blog, se volete andare a guardare, che è interessante, lavampa.noblogs.org. Allora, le compagne della Vampa l'8 marzo sono andate al carcere femminile di Pozzuoli. Ci dicono: questa mattina, come ogni 8 marzo, da quel fatidico 2020 in cui lo Stato ha ucciso 14 detenuti, siamo andate a portare un saluto e un po' di musica alle persone detenute nel carcere femminile di Pozzuoli. Oggi più che mai la lotta transfemminista non può che essere lotta contro il sistema carcerario e la società che lo produce. Contro uno Stato che fuori e dentro le galere ha sempre più controllo sui nostri corpi e sulle nostre vite, vogliamo rompere ogni forma di isolamento e creare sempre più spazi di solidarietà e complicità. Questa mattina l'abbiamo fatto a Pozzuoli, dove le persone detenute ci hanno risposto, facendoci capire che la nostra interazione non era gradita dalle guardie. È notizia di qualche settimana fa che una detenuta nel repartino psichiatrico di questo carcere avrebbe sferrato un pugno a una secondina. Siamo solidali con chiunque si autodifende dai soprusi quotidiani, fuori e dentro le galere. Abbiamo inoltre raccontato e ricordato la lotta di Alfredo, in sciopero della fame dal 20 ottobre, contro il regime di tortura del 41 bis e dell'ergastolo, che lo Stato vuole tombare vivo. Ancora una volta, l'8 marzo per noi non è una data da festeggiare e non lo sarà finché ci saranno ancora guerre, galere, frontiere, CPR, persone chiuse nelle gabbie della psichiatria e del binarismo di genere, con cui in ogni ambito dell'esistenza vogliono farci fare abiura delle nostre identità. Contro gabbie di Stato e patriarcato, l'autodifesa è nostra e non la deleghiamo. Contro la pace sociale, solidali con chi lotta. Sempre riguardo, solo una piccola, diciamo, un piccolo inciso sul discorso di rompere l'isolamento, come dicevano le compagne della Vampa, solo questa piccola cosa che volevo dire riguardo la campagna, al fianco di Alfredo. E oggi si è saputo che l'udienza di riesame per le misure cautelari dell'operazione Sibilla era quella inchiesta che è stata fatta in Umbria rispetto alle pubblicazioni sui periodici anarchici, su Vetriolo in particolare. E che aveva comportato delle misure cautelari e appunto sul quale ci sarà un'udienza di riesame, e che dove figurava come imputato anche Alfredo Cospito. L'udienza è stata spostata dall'aula bunker interna al carcere di Capanne di Perugia l'udienza è stata spostata dal tribunale, volevo dire, dei giudici per le indagini preliminari nella città a Perugia, all'aula bunker interna al carcere di Capanne, che è nella campagna, per dire che è fuori dalla città. Si tratta, dicono i compagni della Faglia di Foligno, si tratta di un palese ulteriore tentativo di ammutolire il nostro compagno, di rendere invisibile il movimento di solidarietà, richiudendosi letteralmente dentro un bunker. Vorrà dire che porteremo la battaglia di Alfredo anche ai detenuti che si trovano reclusi a Capanne. Quindi la presenza solidale che era prevista appunto fuori dal tribunale dai giudici per le indagini preliminari è stata spostata avanti al carcere di Capanne, in strada regionale 220, Pie Vaiola numero 252, a partire dalle 8:30, così dice il comunicato. E ci stiamo ascoltando questa band svedese, band che si era formata negli anni 90, loro sono gli Uncurbed e questo è il loro album Keeps the Banner High ed è uscito nel 2000. Sempre riguardo alla questione carceri, vi dobbiamo dare un aggiornamento sulla situazione di Alessio Attanasio. Alessio ci ha scritto alla nostra casella postale, alla casella postale dell'Associazione Senza Sbarre, e quindi do lettura del comunicato che sta girando da oggi. Persecuzioni contro Alessio Attanasio nel carcere di Oristano. Rinnovato l'isolamento Alessio Attanasio nel carcere di Massana Oristano. Dalla sezione di isolamento del carcere di Massama Oristano, Alessio Attanasio ci fa sapere che gli è stato rinnovato l'isolamento perché, scaduta la sanzione disciplinare, volevano ricollocarlo nella stessa sezione in cui il 23 gennaio aveva subito un'aggressione per mano di alcuni aguzzini della polizia penitenziaria, e lui giustamente si oppone. Nel frattempo si era ammalato e ha dovuto rimanere a letto con una forte influenza. Nonostante ciò, il 16 febbraio il medico di turno ha rifiutato di visitarlo, mentre il giorno dopo la dirigente sanitaria responsabile del carcere di Massama ha redatto un certificato dove attesta buone condizioni di salute. Sulla base di questa falsa certificazione, il Tribunale di Udine ha potuto svolgere lo scorso 17 febbraio un'udienza in contumacia contro Alessio per presunto turbamento delle funzionalità dei propri uffici ai tempi della sua più recente detenzione a Tolmezzo, 2019-2020. Praticamente Alessio è sotto processo per aver denunciato a livello giudiziario tutti gli abusi subiti dalle autorità carcerarie durante la detenzione a Tolmezzo. La Procura e il Tribunale di Udine paiono così voler ricordare che la loro giustizia deve essere a uso e consumo dei torturatori, degli aguzzini e dei persecutori e non dei prigionieri resistenti. Invitiamo tutti e tutte a scrivere ad Alessio all'indirizzo Alessio Attanasio, località Supedriaxiu, 09170 Massama, Oristano. Solidarietà con chi resiste, ai funzionari aguzzini e ai sanitari i loro tirapiedi. La malasanità in carcere è tortura. Dove eravate appostato questa mattina? Mentre loro uscivano, io ero appoggiato alla ringhiera, lungo la riva del lago. Dove precisamente? Tra l'hotel de la Paix e l'attacco ai vaporetti. Ma l'imperatrice è stata pugnalata di fronte allo spazio riservato ai fiaccherai. È così. Le sono corso incontro e le ho sbarrato la strada. Mi sono chinato e ho guardato sotto l'ombrellino. Non volevo colpire la persona sbagliata. Entrambe vestono sempre in nero. Non era neanche particolarmente bella, già piuttosto vecchia. Chi dice il contrario non l'ha proprio mai vista, oppure mente. Poi cosa è successo? Niente, l'ho colpita, tutto qua. Con che cosa? Con un'arma molto appuntita e affilata. Con una lima? Sì. Chi ve l'ha data? Nessuno. L'ho comperata 8 giorni fa. Dove? A Losanna. Dove esattamente? Da chi? Da un Robi vecchi, da qualche parte, nella città vecchia. Più di così non riesco proprio a ricordare, mi dispiace. Avete comprato la lima per usarla espressamente nell'attentato contro l'imperatrice? L'ho comprata per usarla espressamente in un attentato all'imperatrice, ancora non pensavo. Continuate a raccontare. Quando le ho inferto il colpo sapevo benissimo che sarebbe morta. L'ho colpita con tutta la mia forza e ho sentito l'arma penetrare profondamente nel petto. Si è accasciata non appena è stata colpita. Poi sono corso via. E l'arma? Nessuno l'ha trovata? No. Dove l'avete lasciata? L'ho buttata via. Dove? Da qualche parte. La vostra fuga aveva una destinazione precisa? Dove volevate andare? Non riflettete, rispondete. Non volevo fuggire. Non volevate fuggire, quindi siete corso via il più velocemente possibile, così per divertimento? Cercavo la polizia. All'inizio questo era il mio piano. Mi volevo costituire per poter spiegare davanti a tutti perché avevo agito in quel modo. Perché non siete rimasto sul posto? Sarebbe stato più logico. Non avevo voglia di fare la stessa fine di Caserio, linciato da una folla impazzita, mezzo morto, prima dell'arrivo della polizia. Vorreste forse dirmi qualche cosa ancora? La vostra fuga, il cui motivo dovete ancora rendere plausibile, è terminata poco dopo il fatto, a poche centinaia di metri dal luogo del delitto. Da ore la polizia sta cercando l'arma senza alcun risultato. Come spiegate tutto questo? Va bene, volete aggiungere qualcosa? Ammetto che il mio unico scopo era di uccidere l'imperatrice austriaca. La notizia della sua morte mi ha reso molto contento. Sono un anarchico. Vi siete proposto tale scopo da solo? Nulla era stato studiato. Il grande Bakunin ci ha indicato la via per scioglierci dalle catene. Quali catene? Le catene che l'aristocrazia depravata e la borghesia capitalista ci hanno imposto. Voi sapete con esattezza dove conduce la via del vostro grande Bakunin? Anche voi siete un borghese e non sapete di cosa si tratta. Io credo nella propaganda dell'azione e come me molti altri, migliaia e migliaia in tutto il mondo. Solo così si vincerà. Allora era uno stralcio, diciamo, dall'interrogatorio dei giudici a Luigi Lucchini. Luigi Lucchini è il regicida della principessa Sissi. L'abbiamo letto, abbiamo messo così a cappello di un intervento che vorremmo fare sul... Così, considerazioni che vorremmo fare sul discorso del metodo e del proporre i propri contenuti di lotta senza farsi eccessivi scrupoli, eccessivi nonché dannosi, nonché letali scrupoli. Dal proposito, saltiamo di palo in frasca, era uscito, cioè o meglio, i motivi per cui, tra i tanti motivi per cui Alfredo Cospito è stato indagato, condannato, insomma, eccetera, eccetera, era, insieme a lui, altri compagni e compagne, era la pubblicazione di un giornale che si chiamava KNO3, nitrato di potassio, che è un componente del... un esplosivo, di cui uscì un unico numero nel una quindicina di anni fa, dopodiché fu immediatamente sequestrato, eccetera eccetera, come altre volte per la stampa anarchica. Parentesi aperta e chiusa, la stampa per gli anarchici e le anarchiche diventa sempre stata una cosa specifica, diciamo essenziale, nel senso che non avendo, non prevedendo organizzazioni diciamo restrittive, organizzate a livello formale, a livello diciamo come riferimento costante delle proprie attività, e oltre che di confronto, i periodici diventano anche degli spazi, delle dimensioni in cui, dentro cui dare, diciamo, insomma, delle progettualità anche, oltre che dei confronti, anche delle progettualità complessive, diciamo, al movimento anarchico, di quel frangente temporale, intendiamo, no? Quindi nel 2008 era uscito questo, torniamo, insomma, questo articolo che è stato ripubblicato sul di recente su, invece su Senza Motivo, Bez Motivni, un articolo che appunto prendeva spunto da una mobilitazione per degli ergastolani nel, appunto, nel 2007-2008, uno sciopero della fame, era stata scelta questa forma di lotta di tutti gli ergastolani, insomma circa 700 ergastolani di quel momento, e coinvolgeva inoltre altri carcerati e altri, insomma, solidali, familiari, eccetera eccetera, e complessivamente alcune migliaia, insomma 4.000-7.000, non si è mai capito bene. L'estensore dell'articolo, che si chiama l'articolo dal titolo Fine pena mai, su questo appunto numero unico di KNO3, dice a un certo punto che a un certo punto cosa succede? Questo sciopero della fame si blocca e l'iniziativa passa a questa associazione Pantagruel. L'associazione Pantagruel dice che rimarrà disposta, diciamo, a fare da segreteria esterna a questa mobilitazione, ma lo sciopero della fame si conclude, e nonostante pressoché che l'esito nullo, diciamo, a livello mediatico, ma anche a livello all'impatto, diciamo, sul dibattito complessivo sulla abolizione dell'ergastolo fu appunto nulla. Quindi l'errore quale fu, diciamo, da parte nostra, virgolette, nostra, del movimento anarchico? Dice appunto l'estensore, dice l'errore è stato più che un errore, un equivoco da parte di molti compagni, di scegliere un metodo, cioè di interpretare, diciamo, in maniera così preconfezionata un metodo che è quello dello sciopero della fame a oltranza, dice, se portato realmente a termine capace di effetti devastanti, si pensi a un detenuto morto per sciopero della fame nella democratica Italia, dimenticando che il termine della protesta era vincolato alla richiesta di calendarizzazione parlamentare della modifica di legge sull'ergastolo. Ovviamente si era scelta questa via qua, diciamo, di interazione con le istituzioni, trattativa con di ipotesi di trattativa, perché appunto i rapporti di forza uguali, insomma, pressoché a nulli rapporti di forza, quindi l'errore fu appunto di puntare sul sciopero della fame, che invece era un metodo che presentava determinate possibilità di avere una certa intensità nel colpire, no? Però così è virgolette sposata questa lotta in maniera automatica con gli striscioni stato assassino, eccetera eccetera, rimanendo appunto con un referente che è quello solito di movimento molto molto minoritario. E qui cosa succede praticamente? Non succede che occorre darsi questa risposta, insomma, che la critica, l'autocritica è importante, e cioè scusate e c'è stato un problema, mi pare. Comunque riprendiamo da dove avevamo detto, cioè riutilizzare gli stessi strumenti scassati in altro analogo campo di intervento, ovvero una iterazione dell'errore che ridicolizza un patrimonio storico di lotte. E diciamo, i contenuti sono importanti, i metodi di lotta sono efficaci, belli anche, diciamo, esteticamente, e si sbaglia però nella strategia, perché non c'è la progettualità corretta, non ci si sente con la spinta corretta, insomma, di andare fino in fondo alla cosa. E per quello avevo scelto il brano del Luigi Lucchini. Il discorso era appunto i metodi, i contenuti di lotta sono quelli del movimento anarchico, non hanno bisogno di approvazione di altri movimenti diversi da quello anarchico, cioè sono già discussi, sviscerati, fatti nostri, eccetera eccetera, quindi vanno portati, scelti, diciamo, con una strategia corretta, con una progettualità corretta che va verificata, e non come nel caso appunto di questa situazione qui nel 2007-2008, scegliendo l'interlocutore, cioè scegliendo di seguire una lotta a fianco di altre realtà e per paura di non essere compresi o di non essere intesi la società tutta, si conclude l'articolo, ciò che consideriamo strumenti e contenuti di lotta, per far intendere alla società tutta ciò che consideriamo strumenti e contenuti di lotta, non c'è miglior metodo che non risparmiarsi nell'usarli e comunicarli al meglio senza temere fratture con un corpo sociale che è più ricettivo di quanto si pensi. Siamo arrivati agli sgoccioli, come si dice con una frase fatta, e pazienza, per ricordarvi, così in chiusura, prima dei saluti e dei contatti e dell'annuncio dei contatti nostri, dobbiamo chiedervi ancora un momento di attenzione per ricordarvi, e perché vi segnate e perché dovete esserci, specialmente qua del circondario, sabato 11 marzo, che è dopodomani, ci sarà un'importante iniziativa a Udine, a partire dalle 17, presidio concerto contro tortura, repressione e ogni galera, a fianco di Alfredo, per continuare la lotta contro il 41 bis. Dove si svolgerà questa iniziativa? Chi suonerà? Suonerà Vivere Merda, suonerà Crepa, L'iniziativa si svolgerà, se cercate il volantino in rete lo trovate, c'è anche una piantina, al parco di cemento, alle rampe del skate park, che insomma se andate là lo trovate. E ci sarà musica, ci sarà distro e ci saranno interventi, diciamo, inerenti alla lotta del di Alfredo. Mi stanno cercando di dire una cosa magari torniamo a dire che è Udine, comunque è stato detto Udine all'inizio. Ah sì, ovviamente, allora il parco di cemento dei Rizzi è la zona nord di Udine, per chi arriva da fuori dalla zona del capoluogo, diciamo. Quindi parco di cemento dei Rizzi, parco Ardito Desio, ecco, per essere proprio precisi, Udine, sabato 11 marzo dalle 17, con presidio concerto contro tortura, repressione e ogni galera. Siateci. Bene, e come già annunciato, siamo al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane dalle ore 20 alle ore 21:30. Quindi proprio tiratissimi, manca pochissimi minuti e vi ricordo i nostri contatti per chi volesse ovviamente scriverci. Potete farlo con la posta elettronica intestando a liberetutti@autistiche.org oppure intestando ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Inoltre la puntata di oggi, ma anche tutte quelle delle scorse edizioni, potete riascoltarle andando ovviamente in rete su zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì. Anzi, tra l'altro chiedo anche scusa se prima, questioni tecniche, come sempre qui in diretta ho fatto partire un brano che stavo preparando sul piatto e che ora andremo ad ascoltare. Loro sono i Beginning of the End, dal loro unico album, unica uscita discografica per questa band londinese, If You Are Going Through Hell, Keep Going. Questo è il loro album datato 2009, Beginning of the End. Ciao a tutti e anche un saluto a chi ascolterà dalle ore 17 di domani Radiazione, la replica di questa trasmissione odierna che è una web radio. Bene, ciao a tutti e vi lascio con questi Beginning of the End.